Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono destini che si decidono in una notte. È quello che succede ai protagonisti della nostra storia di oggi. La notte di cui parliamo a Destini Incrociati è la notte degli Oscar, non quella più recente. È il 23 marzo del 1998 allo Shrine Auditorium di Los Angeles. La serata è calda. Siamo in California, del resto. Le star iniziano a sfilare sul red carpet. Le donne sono stupende. Questo è l'anno del Titanic, il colossal più visto in tutto il mondo, della bellissima storia d'amore fra Leonardo DiCaprio e l'attrice inglese Kate Winslet, che ha fatto battere il cuore di tutti. Del film che ha fatto stupire per gli incredibili effetti speciali. Dopo l'annuncio delle 14 nomination di Titanic, la gente sembra non aspetti altro che la definitiva consacrazione della pellicola alla cerimonia degli Oscar. Non sanno che questa sera un piccolo film riuscirà a strappare due Oscar al gigante Titanic, cambiando per sempre la vita dei protagonisti dei Destini Incrociati di quest'oggi. Ma per il momento continuiamo a goderci la 70esima cerimonia degli Academy Award. Ecco arrivare proprio Kate Winslet, interprete di Titanic, con i lunghi capelli rossi e uno splendido vestito verde scuro. Nonostante abbia solo 22 anni, Kate è già alla seconda candidatura agli Oscar. C'è anche Helen Hunt, l'attrice protagonista insieme a Jack Nicholson di Qualcosa è cambiato, che arriva in celeste pallido. Nonostante le previsioni, la statuetta come migliore attrice protagonista andrà a lei e non alla Winslet, che dovrà aspettare ancora 11 anni per ottenerla con The Reader. Sul red carpet compare anche Kim Basinger, candidata come migliore attrice non protagonista per LA Confidential. E poi tante altre star: Sharon Stone, Cameron Diaz, Burt Reynolds, Martin Scorsese. Più di 57 milioni di persone nel mondo stanno per guardare lo show presentato per la sesta volta dal comico Billy Crystal. Billy sa come far ridere la gente. È il mitico protagonista di Harry ti presento Sally, è un battutaro nato. Anche per la presentazione di stasera ha in serbo molte idee divertenti. Così tante che per questa partecipazione vincerà un Emmy Award, come dire l'Oscar della televisione. Gli ospiti stanno prendendo posto nelle poltrone rosse del grande teatro. La faccenda durerà quasi 3 ore, ma ne vale la pena. Ogni anno, e questo in particolare, perché oltre al blockbuster Titanic, ci sono altri film di grandissimo successo in gara. Qualcosa è cambiato, Full Monty, LA Confidential e Will Hunting Genio Ribelle, il piccolo film rivelazione del 1997, diretto da Gus Van Sant. Protagonisti, e soprattutto sceneggiatori della pellicola, due semi-sconosciuti attori originari di Boston, Matt Damon e Ben Affleck. La manifestazione sta entrando nel vivo. Iniziano le premiazioni. Titanic, con 11 premi vinti su 14 nomination, sbanca la cerimonia. Sarà uno dei tre film più premiati di tutte le edizioni degli Oscar, dopo Ben-Hur e prima di Il Signore degli Anelli. La statuetta per migliore attore, invece, va a Jack Nicholson di Qualcosa è cambiato. Gli altri nominati per la categoria sono Peter Fonda, Robert Duvall, Dustin Hoffman e l'emergente protagonista di Will Hunting, Genio Ribelle, Matt Damon. Billy Crystal, elencando gli attori, commenta: chissà come si deve sentire onorato Matt Damon di trovarsi nel giro dei grandi. Ed è vero, uno sconosciuto ragazzo di appena 27 anni è insieme ad attori come Jack Nicholson, Dustin Hoffman e Robert Duvall. Ma non c'è tempo per fermarsi a pensare agli attori emergenti. Dopo 20 film interpretati, è Kim Basinger che prende la statuetta come migliore attrice non protagonista. Sul palco è bellissima, con un vestito giallo oro. Per il suo discorso è davvero emozionata. The Oscar goes to Kim Basinger, LA Confidential. This is the first Academy Award for Kim Basinger, who has acted in over 20 films. È il momento del premio al migliore attore non protagonista. Viene premiato un grande, Robin Williams, per Will Hunting, Genio Ribelle. È il primo Oscar per Robin, ma anche il primo per il film che ha ricevuto ben 8 inaspettate nomination. Williams sale sul palco quasi correndo, ha le lacrime agli occhi e una bizzarra lunga giacca nera con uno stile vagamente simile a quello di un guru indiano. Thank you. Grazie. Oh, man. Oh, accidenti. This might be the one time I'm speaking. Questa potrebbe essere la prima volta che rimango senza parole. Oh, thank you so much for this incredible honor. Grazie davvero per questo incredibile onore. Ma poi Robin, per non smentire la sua fama di uomo spiritoso e soprattutto di chiacchierone, aggiunge: And most of all, I wanna... Soprattutto voglio ringraziare mio padre, lassù in cielo. L'uomo che quando io gli dissi che volevo fare l'attore rispose: meraviglioso, solo trovati anche una professione di ripiego tipo il saldatore. È arrivato il momento del premio alla migliore sceneggiatura originale. È un premio importante, un premio che negli anni passati hanno preso grandi sceneggiatori come Billy Wilder, Woody Allen, Orson Welles, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino. Nel 1963 un Oscar per la migliore sceneggiatura originale è persino andato all'italiano Pietro Germi per Divorzio all'italiana. L'anno prima l'Oscar l'hanno preso i fratelli Coen per il film Fargo. Stasera sul palco sale la strana coppia Jack Lemmon e Walter Matthau per annunciare la rosa dei candidati, fra i quali c'è di nuovo Woody Allen per Harry a pezzi. Ecco arrivare l'annuncio. And the Oscar goes to Ben Affleck and Matt Damon. Damon and Ben Affleck are childhood friends. They appeared together in Chasing Amy and Good Will Hunting, for which Damon received a Best Actor nomination. This is their first Academy Award. È incredibile. Matt Damon e Ben Affleck, rispettivamente 27 e 25 anni, vincono l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale della 70esima edizione degli Academy Awards. Due ragazzi sono seduti in prima fila. Sembra quasi che non credano alle loro orecchie. Entrambi sono seduti vicino alle madri. È un particolare molto tenero. Dimostra quanto sono giovani e senza esperienza. Non sono lì con fidanzate glam, non sono lì come due consumati protagonisti dello spettacolo. Sono due ragazzi con le loro mamme. Due ragazzi che sembrano non credere alla fortuna che gli è capitata. Matt e Ben danno un bacio alle due donne, ancora più commosse dei loro figli. Alzandosi dalle poltrone, Matt Damon e Ben Affleck vanno incontro a Robin Williams, che è appena stato premiato, e lo abbracciano. Seduta dietro Williams c'è Minnie Driver, la bellissima attrice inglese protagonista femminile del film, fasciata in un vestito rosso sangue, che sembra sul punto di scoppiare in lacrime. Ora la coppia del momento sale sul palco per abbracciare l'altra, mitica coppia del cinema americano, Lemmon e Matthau. Sembra quasi si stia compiendo un rito di passaggio. La consegna del testimone fra due dei più premiati e riconosciuti attori del cinema mondiale e due sconosciuti ragazzi al loro primo film importante. Ma ecco Matt Damon e Ben Affleck ringraziare il pubblico. Ha, I just said to Matt, losing would suck and winning would be really scary, and it's really, really scary. Ma chi sono questi due ragazzi, questi amici che si sono improvvisamente ritrovati sul palco degli Academy Awards vincendo uno dei premi più prestigiosi del mondo dello spettacolo? Lo scopriremo tra poco, a Destini Incrociati. Questa volta, a Destini Incrociati, le vite dei nostri due personaggi, Matt Damon e Ben Affleck, si incontrano presto. I due trascorrono insieme gli anni importanti del liceo e del college, con passioni, sogni e desideri comuni, e con un senso dell'amicizia che non solo continuerà nel tempo, ma che si rivela la solida base sulla quale costruire insieme un futuro di successi e di riconoscimenti. Matthew Page Damon nasce a Cambridge l'8 ottobre 1970, l'anno in cui si sciolgono i Beatles, in cui l'Apollo 13 riesce ad ammarrare dopo un drammatico rientro dalla Luna. È un bell'anno per nascere, tondo, preciso, semplice, come la vita di Matt. I suoi sono gente ricca, colta, buoni studi, case comode, in quei quartieri della buona borghesia americana, fatti di ville immerse nel verde, di vialetti e vite ordinate. Anche la separazione tra il banchiere Kent Telfer Damon, padre di Matt, e Nancy Carlson Page, la madre, una brillante docente di pedagogia all'università, è civile, ordinato. Dopo il divorzio, Matt con il fratello Kyle e la mamma vanno ad abitare vicino a due delle più famose università americane, Harvard e il MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Tenete a mente questo particolare, ci servirà fra 25 anni. Matt è carino. Con gli occhi azzurri e i capelli biondi, rappresenta il perfetto esponente della cultura WASP americana. Da lui ci si aspetta molto. Frequenta un'ottima scuola della Boston Bene, dalle elementari fino al liceo. È in questa scuola che conosce Ben Affleck e suo fratello Casey. Ben è arrivato da poco dalla California insieme ai suoi genitori. Benjamin Geza Affleck, infatti, nasce a Berkeley, in California, nell'agosto del 1972. Anche sua madre è un'insegnante, mentre il padre è un po' di tutto. Da assistente sociale a bidello ad attore. Il suo secondo nome, Geza, è in onore di un amico dei suoi genitori sopravvissuto all'Olocausto. Ben e suo fratello minore Casey sono simpatici e ben presto legano con Matt. Ben è un tipo in gamba, di quelli che piacciono alle ragazze e che conoscono tutti. Casey invece è il tipo buffo, alleva mille animali, cani, gatti, piccole cavie. Ogni creatura a lui va bene. Ma il rapporto che Matt stringe con Ben è più profondo, una vera amicizia. Matt, nonostante Ben sia più piccolo di lui di 2 anni, ammira l'amico che sembra sapere già tutto. Ben ha persino partecipato come piccolo attore a una serie televisiva per ragazzi, Il mondo di Mimì, uno show che negli anni 80 ha molto successo e che mostra brevi documentari per aiutare i piccoli studenti a imparare la matematica, le scienze e altre materie. I'm Ben Affleck and I'm in the Arctic Test Chamber for the United States Army Research Institute of Environmental Medicine in Natick, Massachusetts. Hi, I'm still Ben Affleck. That was a few years ago when I came here to learn about how our bodies react to cold weather. Quando termina la prima serie di Il mondo di Mimì, Ben ha solo 13 anni e già decide che forse sotto sotto vuole fare l'attore. Ma prima di tutto c'è l'adolescenza da superare e la faccenda non è proprio una passeggiata, come ricorda lui stesso. Non c'è niente di peggio che avere 13 anni. I tuoi genitori ti mettono in imbarazzo e intanto tu sei in cerca della tua autonomia perché, in fondo, sei ancora così dipendente dalla tua mamma. In una delle sue lezioni d'inglese, a Matt viene assegnato come compito lo scrivere una sceneggiatura. È la base di partenza su cui, anni dopo, lui e Ben costruiranno la meravigliosa impalcatura di Will Hunting, Genio Ribelle. Durante il liceo, Matt e Ben si trovano in un bar tutti i pomeriggi, dopo le lezioni, a pianificare la loro carriera. Sono giovani, sono ambiziosi, svegli. La tranquilla vita della città universitaria non sembra bastargli. Matt, forse influenzato dalle esperienze televisive di Ben, decide di volere fare l'attore anche lui, anche se per il momento le insistenze dei genitori, soprattutto dei Damon, costringono i ragazzi a fare scelte ancora molto corrette, di quelle che fanno felici tutti. È per questo che Matt nell'88 entra ad Harvard, dove inizia a studiare letteratura inglese. Dovrebbe laurearsi nel 92, ma inizia a saltare le classi per poter partecipare a piccoli progetti come attore, particine in filmetti di terza categoria o piccole serie televisive. Nell'88 ottiene una piccola parte nel film Mystic Pizza con Julia Roberts. Ha solo una frase da dire, ma è l'inizio. Il film ha una distribuzione internazionale. Ma deve aspettare il 1993 per recitare di nuovo in un film di un certo spessore. Quando ottiene la parte del tenente Britton Davis nel film Geronimo, a fianco di Gene Hackman e Robert Duvall, pensa che sia finalmente la volta buona e lascia l'università, a pochissimi esami dalla laurea. Ma sarà nuovamente deluso. La sua prima interpretazione non viene neanche notata nelle recensioni. Matt decide di trasferirsi a Los Angeles, sperando di riuscire presto a sfondare a Hollywood, e Ben lo accompagna. I due non ottengono grandi risultati, lavorano pochissimo. Quando non va ai provini, Matt passa così le sue giornate, come ricorda in un'intervista. Stavo seduto sul divano tutto il giorno, sgranocchiavo cereali, giocavo ai videogames e scribacchiavo sul mio taccuino. Ma intanto è il 1993. Sono anni di fiducia e ottimismo per l'America. Bill Clinton si insedia alla Casa Bianca come 42esimo presidente degli Stati Uniti, dopo 12 anni di governo repubblicano. Forse significa che Happy Days Are Here Again. I giorni felici stanno tornando, come recita la canzone simbolo del Partito Democratico fin dai tempi di Roosevelt, che anni dopo sarà cantata meravigliosamente da una delle più note sostenitrici del Partito Democratico, Barbara Streisand, in un memorabile concerto al Central Park di New York. Hello! giorni felici stanno per tornare, deve essere quello che si dicono anche Matt e Ben, che continuano a fare piani per la loro carriera come ai tempi del liceo. Affleck si dà alla regia e gira un piccolo corto con suo fratello Casey come protagonista. Il titolo è quantomeno bizzarro. Ho ucciso la mia moglie lesbica e l'ho appesa a un uncino per la carne e ora ho un contratto per 3 film con la Disney. L'opera, nonostante il titolo degno della Wertmüller, non ottiene i riconoscimenti sperati. Chi ottiene un grande riconoscimento nel 1993, invece, è Federico Fellini, che ritira l'Oscar alla carriera. Sono Sofia Loren e Marcello Mastroianni a consegnarglielo. In teatro, tutto il pubblico si alza per una commovente standing ovation. Because tonight I'm filled with the same happiness and the same pride and the same emotion because we are honoring a dear friend who is a towering force in movie history. In addition to being a great artist, is also a fellow countryman, Federico Fellini. In sala ad applaudirlo ci sono Giulietta Masina, la compagna di sempre, e fra gli altri Gregory Peck e un giovanissimo Robert Downey Jr. Ladies and gentlemen, Federico Fellini. Please sit down, be comfortable. If one here has the right to be a little bit or to feel a little bit uncomfortable, that's only me. È incredibile pensare che solo 5 anni dopo, su quel palcoscenico, ci saranno Matt Damon e Ben Affleck. Ma intanto i due ragazzi ancora cercano la loro strada. Vogliono sfondare nel cinema, ma ci vuole un'idea. Non sanno di averla proprio lì, sotto mano, fin quando Matt non ripensa a quell'abbozzo di sceneggiatura che ancora conserva nel cassetto, dagli anni del liceo. Beh, successero 2 cose. La prima fu che per la frustrazione iniziai a scrivere, perché non riuscivo a trovare un lavoro. La seconda è che farlo insieme a qualcuno era l'unica opzione valida per me. Avevo scritto 40 pagine di una sceneggiatura per un compito d'inglese e non sapevo cosa farne. Non sapevo dove andare, non avevo la disciplina per stare seduto di fronte al computer e aspettare che succedesse qualcosa. Quindi dovevo trovare qualcuno. Matt allora decide di parlarne al suo grande amico Ben Affleck. Mostrai quell'idea a Ben che, io penso, uno dei ragazzi più intelligenti che io conosca. Abbiamo un genere di sensibilità molto simile ed egli ebbe la mia stessa reazione. Gli piacque, ma non sapeva bene cosa se ne poteva fare. Ci pensammo per un anno. E poi la cosa iniziò a uscire fuori e, continuando a parlarne, alla fine, in qualche modo il film venne alla luce. Il ragionamento che i due ragazzi fanno è molto semplice. Se riuscissimo a scrivere la sceneggiatura di un buon film e se riuscissimo a venderla, potremmo imporre che 2 dei personaggi siano interpretati da noi. È un sogno. E presto a Destini Incrociati scopriremo quanto questo sogno sia possibile quando c'è di mezzo l'amicizia e il talento. Destini Incrociati. Oggi a Destini Incrociati si parla di un'amicizia da Oscar, quella fra Matt Damon e Ben Affleck, che poco più che 20enni si sono guadagnati la loro statuetta grazie a impegno, determinazione e talento. È ormai il 1996 e abbiamo lasciato i due amici a Los Angeles. Hanno iniziato a scrivere la loro sceneggiatura e intanto aspettano la loro grande occasione per sfondare nel mondo del cinema. Per Matt Damon, questa pare arrivare con una parte nel Coraggio della Verità, uno dei primi film che parla della guerra del Golfo con Denzel Washington e Meg Ryan. Ma nonostante la fatica fatta per Il Coraggio della Verità, dove Matt perde più di 18 kg, nelle recensioni l'attore non viene citato neanche una volta. Allora si butta ancora più a capofitto nella scrittura. La sua sceneggiatura sembra proseguire. Matt, senza una lira, accetta di lavorare in un film per la televisione diretto da Tommy Lee Jones. Il film si rivela, se non un successo, di sicuro una magnifica esperienza. Sul set Tommy Lee è fantastico, e anche Sissy Spacek, la protagonista. L'unica nota dolente è che Matt si trova bloccato per mesi in Texas e quindi teoricamente non può scrivere insieme a Ben. Il problema viene risolto quando diventa amico del proprietario dell'unico fax presente nel paese. C'era solo una macchina per il fax in tutta la città, di proprietà di un ragazzo iraniano di nome Raju. Andavo a trovarlo e lui mi spediva le pagine che avevo pronte per Ben. Mi ricordo che guidava un enorme Lexus, l'unica in tutto il Texas occidentale, e sulla targa c'era scritto il suo nome, Raju. Insomma, era un tipo buffo, ma è stato grazie a lui se la sceneggiatura è andata avanti in quei mesi. Anche Ben Affleck, rimasto in California a lavorare, scrive e spedisce a Matt quello che ha messo giù. Così Ben mi faxava delle scene. Io le leggevo e ci annotavo su. Questo mi faceva venire delle idee, che poi rimandavo indietro a Ben. Così Ben le leggeva e, insomma, sapete cosa vuol dire. E poi ci chiamavamo al telefono e ci dicevamo questo funziona, questo no. E allora io... Ok, ci do un'occhiata domani sul set. Girano una scena dove io non ci sono. Così ho 2 ore per lavorarci. E te le rimando via fax alla fine della giornata. Insomma, è andata così. Affleck e Damon sentono che scrivere li porterà da qualche parte. Che se la sceneggiatura funziona, allora ci sarà una grande occasione per loro. A poco la storia prende forma. La storia di un giovane ragazzo di un quartiere malfamato di Boston, Will Hunting, orfano e maltrattato da piccolo, che lavora come uomo delle pulizie al MIT, la prestigiosa università di ricerca della città. Ma Will è soprattutto un genio, uno che può risolvere qualsiasi problema matematico meglio dei più grandi professori dell'università. Quando uno di questi scopre le grandi capacità del ragazzo, lo affida alle cure di uno psicologo, il professor Sean Maguire, che aiuterà Will a risolvere le sue paure. Quando finalmente la sceneggiatura è pronta, Affleck e Damon la sottopongono a Rob Reiner, il famoso regista di Harry, ti presento Sally, e a William Goldman, lo sceneggiatore di film come Il Maratoneta e Tutti gli uomini del presidente. I due gli danno qualche buon consiglio e alla fine Reiner compra i diritti della sceneggiatura per $600,000. È la svolta, non solo per i soldi, ma anche perché finalmente il sogno si avvera, qualcuno produrrà il loro film. In realtà ci saranno ancora problemi. La casa di produzione Castle Rock non vuole Affleck e Damon come protagonisti, preferendo gli star come DiCaprio e Brad Pitt. Ma questo non è quello per cui hanno lavorato i due ragazzi in tutti questi anni. Così sono costretti a cercare nuovi produttori. Ben Affleck chiede aiuto a Kevin Smith, l'amico regista con cui ha da poco girato Generazione X, che gli presenta i fratelli Bob e Harvey Weinstein della Miramax, una casa di produzione indipendente. I Weinstein si innamorano della sceneggiatura e acconsentono a rilevare i diritti dalla Castle Rock, ma soprattutto decidono di tentare il colpo e lasciare le parti da protagonisti ad Affleck e Damon. E fanno bene, perché in un certo senso queste sono tagliate su misura sui caratteri dei due ragazzi. Ben Affleck, che interpreterà l'amico di Will, Chucky, è simpatico, divertente, quello sempre pronto a fare battute. Mentre Matt, che interpreta Will, pur non essendo un genio della matematica, è uno disposto a raccogliere la sfida che la vita gli offre, a non accontentarsi dei percorsi facili. Finalmente il gioco si fa serio. C'è una produzione da $10 milioni da mettere in piedi. I due hanno carta bianca nella scelta del regista, che alla fine sarà Gus Van Sant, diventato famoso per film belli e difficili come Drugstore Cowboy con Matt Dillon e Belli e Dannati con River Phoenix e Keanu Reeves. È stata una gioia, un piacere recitare nel film. Questo è l'unico lavoro in cui non ti devi chiedere che ore sono. Quando recitavo, recitavo perché mi piaceva veramente, perché volevo veramente che tutto venisse fuori bene. Volevo provare a me stesso che potevo dare il meglio, che potevo crescere, che potevo espandere le mie capacità, ed è stata questa la cosa più eccitante del film. Il rapporto dei due ragazzi con il regista è ottimo. Van Sant si dimostra regista sensibile anche nella scelta della musica, quando chiede all'allora semi sconosciuto cantautore Elliott Smith 2 pezzi per la colonna sonora. Uno dei due, Miss Misery, riceverà una delle 8 candidature all'Oscar del film, facendo conoscere l'eccezionale bravura di Smith al grande pubblico. I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. It's torn in half and locked, and nothing to do. Do you miss me? Miss me like you say you do. In molti si sono chiesti se nella sceneggiatura di Will Hunting ci fossero degli elementi autobiografici, qualcosa della storia personale di Affleck e Damon. In un'intervista, Matt risponde così alla domanda. Io e Ben siamo due ragazzi relativamente normali, e se c'è una cosa che ci rende diversi dal mondo di Hollywood, è proprio la nostra normalità. Comunque no, i personaggi di Will e del suo amico Chucky li abbiamo sviluppati pensando solo al fatto che eravamo due ragazzi che temevano di rimanere al palo, e avevamo bisogno di creare due ruoli che potevamo interpretare. Damon la fa semplice, ma le cose non stanno proprio così. Certo, Affleck e Damon non sono due geni, nel senso in cui Will Hunting lo è, ma di certo sono due ragazzi che hanno desiderato intensamente qualcosa di diverso, qualcosa che non fosse il loro mondo caldo e protettivo, un mondo fatto di certezze e di privilegi ereditati. Will Hunting, genio ribelle, è un film complesso nella sua semplicità, proprio perché tocca molti temi, e i dialoghi profondi ed emotivamente intensi, senza essere stucchevoli, sono il vero punto di forza della sceneggiatura. Un esempio fra tutti è quando lo psicologo Sean e Will sono insieme per la seduta di terapia e Sean inizia a raccontare delle debolezze dell'amatissima moglie morta da poco di cancro. È materiale ad alto rischio di melodramma, ma il dialogo è perfetto, apparentemente leggero, eppure importante, profondo. Mia moglie scorreggiava quando era nervosa. Aveva una serie di meravigliose debolezze. Aveva l'abitudine di scorreggiare nel sonno. Scusa se ti racconto questa cosa. Una notte fu talmente forte che svegliò il cane. Si svegliò anche lei. Sei stato tu e io? Sì, non ho avuto il coraggio. No, si è svegliata da sola. Sì. Oh, signore. Ma Will è morta da 2 anni e questo è quanto mi ricordo. Momenti stupendi, sai, piccole cose così. Però sono queste le cose che più mi mancano. Le piccole debolezze che conoscevo solo io. Questo la rendeva mia moglie. Anche lei ne sapeva di belle sul mio conto, conosceva tutti i miei peccatucci. Queste cose la gente le chiama imperfezioni, ma non lo sono. Sono la parte essenziale. Poi dobbiamo scegliere chi far entrare nel nostro piccolo strano mondo. Tu non sei perfetto, campione. E ti tolgo dall'incertezza. La ragazza che hai conosciuto non è perfetta neanche lei. Ma la domanda è se siete o no perfetti l'uno per l'altra. È questo che conta, è questo che significa intimità. Puoi sapere tutte le cose del mondo, ma il solo modo di scoprire questa qui è darle una possibilità. Certo non li imparerai da un rincoglionito come me. Molte delle frasi utilizzate in questa scena sono inventate da Robin Williams al momento e sono così esilaranti che Matt Damon ride veramente di gusto. E guardando la pellicola, persino la cinepresa ogni tanto traballa, segno che probabilmente anche l'operatore sta ridendo a crepapelle. E dire che avrebbe potuto essere un momento disseminato di lacrime. Per girare Will Hunting, Ben e Matt tornano nella loro città, Boston, da dove sono partiti 8 anni prima, in cerca della fama. È stato entusiasmante, molto entusiasmante poter girare un film nei quartieri a noi familiari, con gente che conoscevamo. Ci sembrava veramente di star lavorando in maniera seria, reale. L'unico problema era quando i nostri amici venivano a trovarci nel bel mezzo della notte. Avevamo affittato un appartamento in centro e loro capitavano anche alle 3 di notte dicendo «Dai, facciamo una festa, così!» Perché credo che non capissero come si lavora in un film, che in realtà c'è un sacco di lavoro da fare. Per loro era come andare a una inaugurazione, era giusto andare a divertirsi. E noi a dire «No ragazzi, stiamo facendo un film, ci dobbiamo alzare fra meno di 3 ore». Insomma, temo che fummo un po' maleducati con i nostri amici. Quando il film esce alla fine del 1997 è il successo. Le recensioni sono ottime e in breve tempo la pellicola raggiunge i 225 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Un record per un film che è costato solo 10 milioni e che è stato scritto e interpretato da due ragazzi praticamente sconosciuti. Damon e Affleck saranno sempre grati al film che li ha lanciati, come racconta Matt. Will Hunting sarà sempre nel mio cuore, perché l'ho creato con il mio migliore amico Ben Affleck. E perché parla di Boston e di quello che conosciamo bene. Perché la posta in gioco era molto alta e alla fine è andata bene, che è quello che conta in questo business. La gente ha visto il film, abbiamo avuto delle buone recensioni, siamo stati contenti del risultato. E in più ci hanno dato un Oscar. Destini incrociati. L'amicizia fra due persone, se unita alla volontà, può condurre a successi insperati. È il caso di Matt Damon e Ben Affleck, divenuti amici durante gli anni del college e uniti dalla comune passione per il cinema. Grazie al talento e alla determinazione, anni dopo sono riusciti a vincere l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, con il soggetto di Will Hunting, Genio ribelle. Da quella incredibile vittoria, in un'edizione in cui il film Titanic ha fatto da padrone conquistandosi 11 statuette, la vita di Matt e Ben non è stata più la stessa. Dall'uscita del film, Affleck e Damon sono subissati di richieste, ottenendo finalmente quello che volevano, entrare nel giro dei grandi. L'anno dopo Ben partecipa a Shakespeare in Love, un film di grandissimo successo. È su questo set che incontra Gwyneth Paltrow, con cui avrà una lunga storia d'amore. Seguiranno altri blockbuster come Armageddon, Pearl Harbor, Daredevil e tanti altri. Matt invece viene scelto da Steven Spielberg per la parte che dà il nome al film Salvate il soldato Ryan. Da allora non si fermerà più. Arrivano i personaggi per cui diventerà famoso in tutto il mondo come Linus Caldwell, il giovane ladro in Ocean's Eleven, con George Clooney che diventerà suo grande amico insieme a Brad Pitt. E soprattutto il personaggio di Jason Bourne nei tre film della saga dell'ex agente segreto smemorato. Lavora poi con Martin Scorsese in The Departed, di nuovo con Soderbergh in The Informant e con Clint Eastwood nell'ultimo recentissimo Invictus, per il quale riceverà un'altra nomination come migliore attore non protagonista. In pratica, da quel 1998 non si ferma un attimo. Credo che per me sia impossibile rifiutare un film se è buono. Forse perché per così tanto tempo sono stato disperatamente alla ricerca di lavoro che per me suona un po' come un anatema dire di no a un lavoro. Se la pressione lavorativa e la fama non sembrano spaventare Damon, Affleck invece inizia a bere per sopportare lo stress. Nel 2001 decide di seguire volontariamente un programma di riabilitazione di un mese. Trascorrerà in clinica il suo 29esimo compleanno con il supporto dell'amico di sempre, Matt. Nel 2002 Ben Affleck è nominato dalla rivista People l'uomo più sexy del mondo. In quel periodo Ben è fidanzato con la famosissima attrice e cantante Jennifer Lopez. La coppia trasuda glamour, bellezza, popolarità, ma i due si lasceranno presto. Matt invece nel frattempo ha incontrato nel 2003 una ragazza argentina che fa la cameriera in un bar di Miami, Luciana Barroso. È finalmente l'amore, quello vero, forse proprio perché Luciana è ben lontana da tutto quello star system che a Damon interessa ben poco. Si sposeranno nel 2005 a New York, in una cerimonia privata officiata dal sindaco Bloomberg. Da Luciana, Matt ha due figlie. Dopo una serie di fidanzate famose nel 2005, si sposa anche Ben Affleck con l'attrice Jennifer Garner. Le due coppie si frequentano assiduamente. L'amicizia di Matt e Ben, che ha resistito all'esplosione del successo e alle carriere separate, continua anche da sposati, accomunata anche dalla passione politica. I quattro partecipano alla raccolta fondi per la campagna per le presidenziali del candidato democratico Barack Obama. Da dopo Will Hunting, Affleck e Damon non lavorano più insieme in un film. Ma questo non significa che non continuino a pensare a progetti comuni. Fondano la casa di produzione Leaf Planet, dando il via a un ambizioso programma chiamato Progetto Greenlight, che promuove una serie di documentari realizzati da dilettanti e che viene comprato dalla rete HBO. Il 2007 è un anno importante per Matt. Viene invitato a lasciare le impronte delle mani e dei piedi sull'Hollywood Boulevard e anche lui viene eletto l'uomo più sexy del mondo. In quest'ultima occasione dichiara: grazie, avete regalato un'iniezione di fiducia all'ego di un padre di mezz'età che durerà per tutta la vita. Affleck prende in giro l'amico, commentando così la notizia. Conosco Matt da anni e so che essere l'uomo più sexy dell'anno è l'unica cosa che l'abbia mai veramente interessato. Del resto Matt è così metrosexual. Si mette un sacco di profumi e non esce di casa se prima non si è spalmato almeno 3 diversi tipi di creme idratanti sulla faccia. Affleck e Damon si prendono spesso in giro, proprio perché la loro amicizia è fuori dal comune, resistente ad ogni intemperie. Tanto da confessare cose anche molto bizzarre, come fa Ben in un'intervista. Se mai un giorno mi dovessi svegliare in una stanza d'albergo con accanto una prostituta morta, Matt sarebbe la prima persona che chiamerei. Sono battute degne del copione di Will Hunting, ma il copione della loro vita è molto più emozionante e in larga parte ancora da scrivere. Fin qui, nei loro destini, la volontà e l'amicizia hanno giocato una parte importante. In seguito sarà la bravura, l'impegno e soprattutto la resistenza a un mondo spesso duro e spietato come quello dello spettacolo. Anche se, come dice Matt, nulla è poi così duraturo. Tutta questa faccenda di essere una star passerà, passa per tutti. E tutto quello che alla fine ti rimane è se riesci a guardarti indietro e ad amare ancora le scelte che hai fatto. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.